tuoi quattro passi in cura, e il tuo corpo stanco a casa arriverà, lasciato vuoto dopo tanto tempo, perché l'anima è rimasta in mezzo a carne seppellita, fino giù nel fondo buio alle trincee. Sembrava avessi tra le mani il mondo, ha detto, non si scherza con la libertà. Soldato danza sopra il faro, che potrai tra poco riabbracciare lei, rimasta a piangere in ginocchio, che ti supplicava di non dirle a te. Lei che ti ha aspettato tanto, ma non è una santa e non puoi fargli colpa. E quando sei tornato neanche ti ha riconosciuto, tu te ne sei andato via. Soldato si solleverà con ali senza piume e volerà sulle pianure battute dalla pioggia, la terra piena del sudore di mille più creature dannate sotto i colpi del fucile dell'ambizioso traditore. Dio delle nebbie, delle valli, la sua anima si salverà. Prega per lui, povero cristiano. Soldato striscia sopra il faro, dentro un fumo denso che ti toglie il fiato, col freddo che ti arriva all'osso, nonostante l'oppio calmi il tuo pensiero. Se mangi ancora un po' di quella terra nera, forse smetterà il dolore, ma quello che hai sommerso in fondo al cuore, per adesso un po' non puoi sentire. Se solo avessi contro tutto il mondo, forse lo potrei guidare. Se solo non vivessi dentro un altro tempo, sai che ti potrei capire. Lo so, questo non serve a toglierti di dosso il peso di ogni tuo errore, forse sei soltanto vittima di questo mondo, il tuo istante che ti ha reso.